известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The acting CFO of Freddie Mac has apparently committed suicide. Digital correspondent Jessica Doyle is live in Vienna, Virginia with the latest. Jessica, what do you know? Hi there, Audrey. We are in this community in Vienna, Virginia, a neighborhood that's obviously starting to hear this news. We've seen very upset neighbors. And la giornata in America si è aperta con una notizia piuttosto impressionante, soprattutto per l'ambiente di Washington, per l'ambiente governativo, istituzionale, per l'ambiente della nascente amministrazione. È stato trovato morto, 41 anni, giovanissimo, probabile causa suicidio. Il David Kellerman, il responsabile finanziario di Freddie Mac, ovvero una delle due sigle diventate familiari, forse tristemente familiari negli ultimi mesi anche al pubblico internazionale, come l'impresa privata con supporto governativo specializzata nella emissione di mutui, nella relativa rivendita nel mercato secondario, alle spalle di circa 13 milioni di mutui immobiliari negli Stati Uniti, in pratica una società con entrambe le scarpe nella crisi economica che è in corso da qualche mese in America. La notizia è ancora piuttosto scarna. Quello che avete sentito era un estratto da uno dei primi servizi da parte di una televisione via cavo di Washington sui fatti che sono avvenuti a Vienna, in Virginia. Vienna è uno degli sterminati, infiniti sobborghi che circondano la capitale, il distretto di Columbia, e si parla, le prime indiscrezioni per la morte di David Kellerman parlano di suicidio apparente. C'è un'intervista con uno sceriffo che dice che non nella casa e nella scena della morte di Kellerman non è stato trovato, non è stato rilevato nulla di strano, di irregolare che possa far pensare a cause diverse dal suicidio, ma evidentemente però l'ipotesi di suicidio avanzata e ribadita pochi istanti fa da un flash della CNN fa pensare che siano stati trovati comunque anche indicazioni in questo senso, e che quindi non si tratti di morte naturale, ma ci sia qualcosa che fa che autorizza a pensare al suicidio. Se ne saprà sicuramente qualcosa di più nelle prossime ore. Nella casa di Kellerman ci sono in questo momento i familiari, naturalmente le autorità inquirenti. Il profilo di Kellerman è di altissimo livello. L'uomo era da poco stato nominato responsabile finanziario della società, soltanto nel settembre scorso, dopo le dimissioni di Anthony Buddy Pizzle, che ne aveva seguito, come dire, l'inizio del naufragio, per meglio dire, dell'entrata nei marosi della crisi economica, e che aveva lasciato la società dopo la decisione del governo di nazionalizzare Freddie Mac. Avremo, penso, più tardi altre notizie al riguardo. Una nuvola scura che si profila all'orizzonte, oltre che della società, anche delle procedure dell'amministrazione americana per uscire dalla crisi in questi giorni assai particolari, assai densi di novità, al presente e in certi casi anche di anniversari. We all know there has been a terrible shooting at a high school in Littleton, Colorado. I hope the American people will be praying for the students, the parents, and the teachers. And we'll wait for events to unfold, and then there'll be more to say. Perché ieri è ricorso il decimo anniversario di Columbine, e l'America ci ha ragionato sopra parecchio, soprattutto dal punto di vista mediatico, della stampa, della televisione, che ha dedicato a quel fatto, a questo anniversario, molto, molto spazio e lunghe, articolate riflessioni a margine di un problema che naturalmente è tutt'altro che è risolto. Vi ricordo 10 anni fa nel liceo di Columbine, la Columbine High School, a due studenti si introdusse, si chiamavano Eric Harris e Dylan Klebold, armati fino ai denti e senza apparenti spiegazioni, senza motivazioni, senza dire nulla, aprirono il fuoco e trasformarono il liceo in una macelleria, uccidendo tanta gente, ferendone altrettanta e provocando in un certo senso uno shock permanente in una comunità pacifica, benestante come quella di Columbine, che si trova nel Colorado vicino a Denver. I morti furono 12, un professore anche venne ucciso e poi 12 studenti, un professore e poi i due ragazzi si tolsero la vita. Ci sono state cerimonie di suffragio, ci sono state manifestazioni, Oprah Winfrey ha annullato la sua trasmissione la trasmissione del documentario che era stato realizzato sulla strage Columbine, giudicandolo troppo incentrato sui due autori della strage, mentre invece, questa è la linea che più spesso abbiamo notato nella vasta articolistica dedicata all'argomento, bisognerebbe riflettere un po' di più su chi resta, no? È vero che Columbine è stata la madre di tutte le stragi giovanili, è vero che le motivazioni alla sua origine coinvolgono naturalmente anche il mondo degli adulti, tante decisioni, anche tanti diritti costituzionali che gli americani continuano a rivendicare come propri, a cominciare dal secondo emendamento, dal diritto di difendersi, quindi di detenere delle armi a scopo di difesa, ma è vero anche che il filone non si è mai esaurito, e se da un lato il tanto sociologicamente, no, sottolineato pericolo del copycat, delle imitazioni, non è mai veramente andato in scena, non va mai veramente in scena, sembra più che altro un espediente, una mentalità giornalistica, mediatica, quella di pensare che un fatto tremendo ne generi altri di consimili a specchio. In realtà invece esiste una macchia, una mappa a macchia di leopardo di fatti di questo genere, che sono disseminati sia nello spazio che nel tempo americano e si ripresentano con una puntualità inquietante, e continuano ad avere questo grande vuoto, no, alle proprie spalle, no? È difficilissimo, è impossibile individuare le reali motivazioni al di là di un tentativo di compiere il gesto con la I maiuscola in tutta la sua tragicità, prima di chiudere i propri rapporti con il mondo dei vivi, e l'America continua a sopportare questa piaga. Non passa settimana che non arriva la notizia di una strage, quasi sempre messa in atto da signori nessuno, no? Da signori senza particolari caratteristiche le hanno fatti notare, se non quello che proprio magari in questa invisibilità poteva risiedere la motivazione essenziale del disagio, poi esploso in questo modo in tragedia. C'è tanto attorno a Columbine, ci sono tanti film. Vi ricordo quello di Gus Van Sant intitolato Elephant, c'è quello mitico, un premio Oscar di Michael Moore, che magari oggi mostra un po' più la corda, no, se rivisto di questi tempi. Ci sono dei servizi televisivi forse ancora più interessanti di questi film, magari un po' troppo d'autore, no? Un po' troppo firmati, ne abbiamo visti alcuni nei giorni scorsi, in cui soprattutto, e concludo dicendo questo, si parla ancora soprattutto dei vivi più che dei morti, o peggio ancora di chi ha perpetrato una strage di questo genere, i vivi, cioè quelli che oggi per esempio vivono a Columbine, e nel solo dire che vivono a Columbine portano, no, impressa nel loro quotidiano questo marchio, questa memoria indelebile che collega così a una visione, forse la visione più tragica, no, dell'America, laddove l'America diventa un po' di più una tragedia americana. E siamo in coda alla parte che apre la puntata di oggi di Jefferson, perché il tempo già trascorre. Vi do solo qualche notizia relativa alle attività, alle così, così intense attività diplomatiche che hanno mosso gli scenari internazionali negli ultimi giorni. Vi ricordo il vertice di Ginevra che si è chiuso ieri con un finale altrettanto turbolento quanto il suo svolgimento, dopo il già molto discusso intervento di Mahmoud Ahmadinejad. Vi do solo la notizia che, ecco, prima di tutto Barack Obama avrebbe invitato i presidenti dell'Afghanistan e del Pakistan a Washington per un vertice ai primi di maggio, poi che è stato fissato per il 28 maggio l'incontro a Washington tra Obama e il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, Mahmoud Abbas. Questa è una notizia di fonte palestinese. Lo stesso Obama era stato lui a rendere noto di aver invitato anche il premier Benjamin Netanyahu e il presidente dell'Egitto Hosni Mubarak. Secondo la stampa israeliana, l'incontro Obama-Netanyahu dovrebbe avvenire il 18 maggio, quindi prima di quello con Abu Mazen. Date non ancora confermate, ma date per assai probabili, quindi estrema attività, estrema attenzione degli Stati Uniti sul fronte israelo-palestinese. Non solo più delega a Hillary Clinton di portare avanti le trattative, ma discesa in campo di Barack Obama in prima persona. E infine è tornato a parlare niente meno che il leader massimo Fidel Castro. Ieri è venuto alla ribalta per dire che Barack Obama avrebbe frainteso le parole di suo fratello. Questo ci sembra francamente uno scenario imbarazzante. Non hai capito, mi fratello? Non so cosa può aver detto a Obama Fidel Castro per chiedere, no, di parlare lui, di prendere lui la voce. Comunque ha fatto sapere che i discorsi relativi a un avvio di distensione fra Washington e Cuba, per quanto lo riguardano, continuano a rimanere soggetti all'eventuale rilascio di prigionieri politici a Cuba, e il rilascio di eventuali prigionieri politici a Cuba resta per lui subordinato al rilascio di 5 agenti cubani in carcere negli Stati Uniti. Prima di questo, per quanto lo riguarda, non se ne parla neanche. Affermando che il presidente di Cuba è pronto a discutere di tutto con il presidente degli Stati Uniti, scrive Fidel, Raul, suo fratello, ha voluto dire che non teme di affrontare qualsivoglia argomento. Si tratta di una prova di coraggio e di fiducia nei principi della rivoluzione cubana. Secondo lui, nessuno deve stupirsi se si parla di graziare i condannati il marzo 2003 e di inviarli tutti negli Stati Uniti, se quest'ultimo paese è disposto a liberare i 5 eroi antiterroristi cubani. Quindi siamo tutto sommato al consueto braccio di ferro. Anche qui la diplomazia americana sta cominciando a incontrare i primi tornanti, quelli più duri. C'è musica che si attagli meglio, no, alle storie di Columbine e dintorni, che quella di una meteora che proprio in quegli anni conobbe rapida e purtroppo effimera celebrità, e parliamo di Jeff Buckley che stiamo ascoltando in sottofondo. E abbiamo una buona notizia per gli ascoltatori più appassionati, più vicini a Jefferson. Gli altri diranno un ciclopico chi se ne frega, caro Emiliano. Sentiamo un po'. Ma la ottima notizia è che rifunziona. piccole, noi parliamo di piccole, una grande notizia, rifunziona la risposta automatica alle nostre mail. Il grande, non so se è un grande fratello, il grande cugino di Facebook, Fidel Castro, chi c'è dietro Facebook, non è dato sapere. Comunque il signor Facebook adesso fa rifunzionare il risponditore intorno alle 14 ha ripreso a si è resuscitato come Lazzaro, quindi adesso possiamo ricominciare a mandarvi le nostre scocciantissime mail se siete iscritti a Express Yourself, e voi potete rispondere solo schiacciando il bottoncino, e come si dice sono piccole soddisfazioni. Express Yourself. Si vive anche di questo, caro. Si vive soprattutto di questo. Vai, va. Dunque, no, tema della giornata, tema, sì. Chiusura su Ahmadinejad. Sapete bene che è stato espresso un documento di cui peraltro la versione integrale ancora non ne trovo traccia. Neanche io l'ho visto. Però si parla di prevenire, combattere, debellare il razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, intolleranza, e chi non sottoscriverebbe. E si continua a litigare a margine. Il Vaticano dice stiamo e discutiamo, il governo italiano dice noi neanche ci vogliamo andare, facciamone uno diverso, gli americani stanno un po' in mezzo al guado. Vi abbiamo chiesto, a fronte di tutto questo scenario, che pensate? E allora è proprio sull'assenza del governo italiano, scrive Barbara, che pone anche dei problemi, perché da un lato dice forse il governo italiano restando fuori non ha condotto la politica di presenzialismo, ecumenismo e tentativo di dialogo con cui che sono tanto in voga in questo momento, però sicuramente è difficile mediare tra la necessità di apertura verso tutto il mondo e la presenza di stati così terribilmente lontani da una società veramente paritetica. Poi c'è Stefano che invece ha una proposta direi pratica e persino efficace, e dice visto che Ahmadinejad ha dichiarato che parteciperà a tutti i prossimi incontri internazionali almeno finché sarà presidente dell'Iran, perché i leader occidentali non prendono a turno la parola e non gli sbattono in faccia tutte le violazioni di diritti umani che compie nel suo paese? Aspetta, a questo proposito sta uscendo in questo momento su CNN o su Fox News una notizia dell'ultima ora. Hillary Clinton avrebbe detto che dal suo punto di vista è imperativo fermare il programma nucleare iraniano immediatamente. Restiamo in tema, non è, non è, sì, esatto, per quello dovete, non è così lontana, no, questa bomba quanto si pensa evidentemente, e questo appunto cade, no, in questa insistenza di diplomazia nei confronti di Iran voluta per Barack Obama. Americani che non sono andati a questo Durban 2, certo, naturalmente, quindi non possono né aver letto né firmato questo documento finale. Chiudo questo giro con Margherita, che è breve e chiara. Io voto per Tomasi, che è il nunzio del Vaticano, che invece c'è stato e ha partecipato attivamente ai lavori di Ginevra. Francesco, telegrafico, dice Obama deve continuare, chi la dura la vince. Silvio, che strano, l'Italia boccia il documento finale dell'ONU, potenza di Israele. Stranamente l'Italia questa volta si scosta dalla strada e dalle posizioni del Vaticano. Matilde, ma il testo redatto dall'ONU avrà sicuramente dei difetti, però io non l'ho letto, quindi non mi sbilancio. Certo, sentire Berlusconi dire che non accetta compromessi al ribasso mi fa ridere, visto che le ultime leggi sull'immigrazione in Italia sono totalmente al ribasso. Tra l'altro la discussione è ancora aperta nel Parlamento italiano. C'è Dario invece che sul dilemma che abbiamo posto, esserci o non esserci, non ha dubbi, e scrive esserci, tutto in maiuscolo. Gli assenti hanno sempre torto, la storia insegna dall'Aventino in poi, quindi la prende veramente alla larga, che chi si estranea dalla lotta, potremmo dire, non partecipa e non conta. Poi c'è Gustavo che addirittura vola altissimo e mescola più argomenti, dice il razzismo è divenuto un concetto di emarginazione umana che attraversa trasversalmente il mondo e le comunità moderne, non vi è più una semplice quanto banale emarginazione dei neri rispetto ai bianchi. Oggi il razzismo può essere quello iraniano che impicca gay e marginalizza a livello di schiavitù le donne, ma può anche essere, qui è la connessione di argomenti, quello degli agenti segreti americani che si difendono dalle accuse di torture esattamente come fecero i gerarchi nazisti, quindi parallelo complicatissimo, dicendo eseguivamo gli ordini. Se ne parla tra 5 minuti, tra poco. Concludo, raffica finale. Massimo, personalmente credo che questa conferenza sul razzismo e ciò che ne deriva sia di un ovvio e di una inutilità disarmante. Manuel, spero che si passi dalle parole ai fatti concreti, tutti sappiamo che il razzismo è brutto, aderisco completamente. Luigi, si sentono un sacco di opinioni, molte di esse in disaccordo tra loro per motivi ideologici, religiosi e così via, ma qualcuno ha delle idee? Mukeba, nonostante lo scetticismo iniziale il documento è meno peggio del previsto, non è un buon inizio ma è un inizio. E infine Stefano che dice, parlando come i giovani, italiani è tutta noia, nessuna idea nuova all'orizzonte, nessuna azione concreta, un po' troppe parole, forse questi documenti, forse questi convegni, no? Bisogna passare ai fatti dopo le parole. Gran perplessità. Was it you who spoke the words that things would happen but not to me? All things are gonna happen naturally. Oh, taking your advice, and I'm looking on the bright side and balancing the whole thing. Oh, but it oftentimes those words get tangled up in the lines, and the bright light turns to night. Oh, until the dawn it brings another day to sing about the magic that was you and me. You and I both loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love, or the love that I love. See, I'm all about them words, over numbers, unencumbered, numbered words. Hundreds of pages, pages, pages for words, more words than I had ever heard. And I feel so alive, 'cause you and I both loved what you and I spoke of, and others just read of it. If you could see me now, oh, love, love, you and I, not so little you and I anymore. Mm-hmm. And with the silence brings a moral story, more importantly evolving, is the glory of a boy, 'cause you and I both love what you and I. Finally, finally, well, I am free. Oh, I'm free. And it's okay. Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. E dunque parliamo di una sigla temuta, a volte famigerata su tutte le prime pagine in queste ultime giornate, la CIA, l'ex vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Dick Cheney, come tutti i, no, i, fa fatica a farsi sentire adesso che è stato pensionato, ma insomma ha cercato a più riprese di dire la propria. L'intervista più rilevante è stata concessa alla BBC Britannica, televisione britannica, per esprimere tutto il suo disappunto, il suo disaccordo sulla decisione di pubblicare i memo della CIA relativi alle tecniche di interrogatorio utilizzate contro presunti terroristi. Secondo lui è stato un grosso sbaglio per un motivo, soprattutto che una delle cose più che ha trovato più irritanti, dice lo stesso Cheney in questa rivelazione, è stata che questi memo legali non mostrano i successi di questi sforzi. Insomma, si dice il peccatore, ma non il peccato che ne è fuoriuscito, ne è venuto fuori. Ieri Barack Obama, in coda a una conferenza stampa, dopo peraltro aver reso omaggio alla CIA con una visita che è stata anche piena di segnali di empatia, di apprezzamento, insomma, stendendo la mano nei confronti dell'intelligence, ha dichiarato: non voglio politicizzare eccessivamente la questione dei memo della CIA. Nel motivare la decisione di non accusare formalmente gli agenti dell'intelligence ricorsi a dure tecniche di interrogatorio, soprattutto al waterboarding, Obama ha parlato della necessità di guardare avanti e non indietro, perché in quanto alle minacce di terrorismo l'estremismo ha ribadito, le minacce sono là fuori e sono là fuori che ci sono i veri nemici. Insomma, ha dato un'altra pacca sulle spalle alla CIA dopo giorni di brutte turbolenze, no, relative a questi appunti su quanto sarebbe accaduto nel corso degli interrogatori di alcuni sospettati di terrorismo internazionale. Abbiamo in linea Stefano Silvestri, il direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio, Silvestri. Buon pomeriggio a voi. Me lo dà un a questo punto, all'indomani di questi sobbalzi, così anche piuttosto contraddittori tra loro, un quadro di come si va a ridisegnare, no, il rapporto tra Casa Bianca e CIA, la CIA che si è fatta vedere fortemente infastidita dalle rivelazioni, al tempo stesso ha dovuto naturalmente con imbarazzo ammettere che quelle centinaia di episodi di tortura c'erano stati. Da che punto si riparte all'indomani di questi episodi? Ma io ho l'impressione che essenzialmente Obama abbia voluto ristabilire una situazione di base di legalità certa, che cioè esclude un certo numero, un certo tipo di comportamenti anche abituali, come si è visto da questo tipo di informazioni, per ricreare una maggiore credibilità dell'azione politica internazionale americana. Ora è anche possibile che qualche volta attraverso questi usi di tortura o di semitortura ci sia stata qualche informazione preziosa. In genere l'esperienza di questi tipi di interrogatori è che quando si ricorre a questi metodi il prigioniero dice qualsiasi cosa, certo, pur di farli smettere, quindi non è poi riuscire a individuare il vero dal falso diventa molto spesso estremamente difficile, sono interrogatori molto viziati. Comunque tutto è possibile, ma il fatto vero era che questo tipo di azioni macchiava, diciamo, in un certo senso l'immagine pubblica degli Stati Uniti in maniera estremamente forte e quindi ostacolava quello che è l'idea principe di Obama, cioè che gli Stati Uniti devono riconquistare in un certo senso una grande credibilità, certo, la loro credibilità, certo, certo, morale. Anche. Però Silvestri, non è un po' bonario questo, alla luce sicuramente della buona fede, anche delle eccellenti intenzioni del Presidente, ma non è un po' bonario questo guardare avanti, non indietro, insomma sì, qualche errore è stato commesso, voglio dire, esistono tribunali internazionali, a cui peraltro gli Stati Uniti ben difficilmente danno ascolto, ma insomma, però esistono episodi paralleli che non coinvolgevano gli Stati Uniti d'America, in cui anche retroattivamente si è agiti con ben diversa decisione, o sbaglio. No? Qui si archivia, mi sembra, con una certa, no, come dire, la situazione era d'emergenza, le notizie servivano, sì, sono stati fatti errori, si va un po' via, come dire, un po' in scioltezza, un po' in supplessi. Un po' in scioltezza, sì. Diciamo che normalmente uno si aspetterebbe un'effettiva, diciamo, individuazione delle responsabilità anche, certo, penali, ecco. Certo, certo. Questo naturalmente gli Stati Uniti possono accettare di farlo o non farlo, loro non hanno aderito proprio per questa ragione, tra, certo, l'altro il Senato tra l'altro non ha mai voluto aderire per esempio alla Corte Penale Internazionale, certo, proprio per evitare che si venissero a creare situazioni in cui potevano essere messi sotto accusa. Anche perché questa gente ha agito effettivamente sulla base di un'interpretazione legale fornitagli dal loro governo in cui dicevano che era legale. Certo, certo, certo. Quindi diventa una situazione estremamente pesante. C'erano del benestare della Casa Bianca. Sì, c'era il benestare della Casa Bianca. Quindi diventerebbe una situazione estremamente pesante che Obama ha deciso di chiudere così. Uno può essere d'accordo o non d'accordo, in un certo senso si può dire che è stato un po' facile. Però a questo punto direi che effettivamente ha ragione Obama nel dire che l'essenziale è che abbiamo riconosciuto, certo, che questo tipo di comportamenti non è, certo, non può essere replicato perché è un reato. Silvestre, le rubo un ultimo minuto, se è così cortese, perché ci piacerebbe avere un commento su questa notizia che oggi ha un po' inondato i giornali italiani relativa a questo attacco di hacker. Si torna un po' in ambientazione, no, di spionaggio vecchio stile, i super computer che vengono violati dagli hacker cinesi, che subito li vediamo nella penombra di qualche cantina. Ma che cos'è questa notizia? Ci dia una sua lettura. Credo che sia sostanzialmente vera. È molto divertente e anche un po' ironica per noi europei che stiamo facendo che partecipiamo a questo programma GSF, certo, per italiani, non riusciamo a ottenere dagli americani tutta una serie di specifiche tecniche, certo, che a quanto pare possiamo chiedere ai cinesi. Possiamo chiedere ai cinesi a questo punto. Quindi c'è un elemento anche di ironia notevole della faccenda. Ma direi che ancora una volta conferma quanto la dimensione della cyber warfare, della guerra attraverso il web, attraverso i computer, stia diventando essenziale. Calcolate che già ci sono stati attacchi in questi anni. Un paese, l'Estonia, è stato praticamente paralizzato per 24 ore quasi, certo, da attacchi di questo genere, e sono spesso in corso. Diciamo che è una nuova dimensione della sicurezza che forse è stata un po' sottovalutata in questi anni, e chiaramente il Pentagono stesso è stato colto di sorpresa dall'abilità degli hacker. Il problema è, secondo me, che in realtà questi attacchi vengono condotti da persone che sono più agili nei loro attacchi di quanto non siano le difese forse un po' burocratiche, che riesce a mettere in piedi una grossa struttura burocratica come quella del Pentagono. Certo, c'è tutta una grande letteratura. Grazie mille a Stefano Silvestri per i suoi pareri di esperienza. Tra l'altro questo F-35 Lightning II si chiama l'aereo, il supercaccia di cui sarebbero stati violati i segreti, ed ha un logo che è tutto uno spettacolo, ve lo farei vedere. Si chiama Joint Strike Fighter, un caccia che attacca insomma in collaborazione con altre forze, e ha un suo motto che è tutto un programma: lethal, survivable, supportable e affordable, cioè letale, che permette la sopravvivenza, che è sopportabile, questo adesso capiremo meglio cosa vuol dire, ma soprattutto che è affordable, cioè che ve lo potete permettere, cari ascoltatori. È a portata di tutte le tasche l'F-35 Lightning II. Of ground where I can lay. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Vediamo di darvene più possibile, anche se il tempo è poco. Letture istruttive in questi giorni, i quotidiani israeliani su Haaretz. C'è un'intervista a un alto funzionario americano che parla in condizioni di anonimato e che spiega come Obama intenda rilanciare il processo di pace adottando una serie di misure in grado di costruire un clima di fiducia reciproca tra Israele, autorità palestinesi e paesi arabi. Il piano Obama, precisa questo funzionario, prevede un congelamento delle nuove costruzioni negli insediamenti ebraici in cambio di passi verso una normalizzazione dei rapporti con Israele da parte dei paesi arabi. Quindi un piano ce l'ha, vedremo se funziona. Anche un interessante editoriale su Jerusalem Post, lo trovate anche in versione online, intitolato "Perché Obama sorride ai dittatori", una lettura piuttosto interessante. Vi do anche una notizia sicuramente, come dire, sensibile per i frequentatori, gli abituali di internet. Yahoo ne ha mandati a casa 700 di suoi dipendenti, il 5% dei suoi effettivi, nonostante abbia guadagnato 118 milioni di dollari nei primi tre mesi del 2009. Ottimizzano, si dice. Ottimizzano. Allora io mi sposto in Cina, abbiamo aperto la trasmissione purtroppo con la notizia del suicidio di uno dei capi, insomma, della Freddie Mac, e io insisto sul tema del suicidio perché notizia di ieri: si è suicidato, si è impiccato un funzionario governativo che aveva perso il figlio l'anno scorso nel terremoto del Sichuan. Tra l'altro si avvicina l'anniversario, il 12 maggio, di questo triste terremoto con 70-80 mila morti, è una notizia insomma devastante all'epoca. E il funzionario Feng Jiang, 33 anni, era capo del Dipartimento per l'Informazione di Beikuan, in uno dei villaggi rasi al suolo completamente nel sisma appunto del maggio dell'anno scorso, e si calcola che all'epoca 1000 ragazzi e ragazze, tra cui appunto il figlio anche del funzionario, siano morti proprio travolti dal crollo della scuola. E io adesso la parolina ve la dico, così vi vengono i brividi lungo la schiena. La parolina è 2010, si vota nel 2010, si vota. Cari ascoltatori, si vota in America, ci sono le elezioni di medio termine, qui siamo a 2009 campagna elettorale, inoltrate, no? E tra un po' cominciamo il conto alla rovescia, no, quello ve lo risparmiamo, però cominciano a fioccare ipotesi sulle candidature. Per esempio un personaggio molto interessante che si chiama Gavin Newsom ed è il sindaco di San Francisco, un tipo molto particolare, sembra più un attore di Hollywood che un politico, ha deciso di scendere in campo contro Arnold Schwarzenegger per la poltrona di governatore della California, poltrona peraltro bollente. In corsa ci sarà anche un veteranissimo come il 71enne Jerry Brown, che è stato a sua volta governatore della California, attualmente si occupa dal 75-83 governatore, pensate, in un'altra vita, attualmente procuratore generale. John McCain, che correrà per confermare il suo seggio nell'Arizona, avrà un avversario molto molto temibile, si chiama Chris Simcox, è il fondatore dei Minutemen, e ci vorrebbe molto tempo per spiegarvi chi sono i Minutemen, comunque una organizzazione di difesa civile, diciamo dei volontari di difesa civile, che è stufo della interpretazione del conservatorismo americano da parte di McCain e lo vuole pensionare, quindi si affilano già le armi. Quando hai detto 2010 pensavo volessi parlare dell'Expo di Shanghai. E invece è tutta e altra non storia. Vi parlo dell'Expo di Shanghai. Anche quella saranno sei e mesi. Non vi parlo, insomma, ci saranno dei numeri da capogiro anche in Cina l'anno prossimo. Temete. Per restare invece alla Cina, notizia invece drammatica, pesante, forse avrà delle ripercussioni, perché tre tibetani sono stati condannati in Cina per gli incendi, gli incidenti scoppiati durante le rivolte di un anno fa in Tibet, a Lhasa. In particolare uno degli imputati è stato condannato a morte, anche se poi la condanna è stata differita di 2 anni, per l'incendio di 2 negozi di abbigliamento in cui morirono 6 persone. Il Dalai Lama ha parlato di sentenza politica e dice che tra l'altro sta per arrivare negli Stati Uniti, e dice insomma che la situazione è molto pesante. Bello carico di notizie questo numero di Jefferson Due, l'arte da svolti. Sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini, a Roma Giacomo Spunta, a Milano la mail jefferson2@radio24.it e su Facebook rifunziona finalmente la risposta automatica ai nostri temi focus che giorno per giorno vi inviamo, quindi domani ve lo trovate puntuale come una cambiale, e lo trovate su Jefferson 2 Radio 24 Express Express Yourself, il sito bacheca dove discutere e litigare, se volete, redazione Jefferson 2, per parlare con noi e proporci qualsivoglia argomento. Iscrivetevi numerosi, la puntata in replica a mezzanotte, in podcast sul sito della radio, in diretta domani alle 4 qui su Radio 24. Yeah.